Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, eccoci qua. Le 8:21, caro Oscar. Però se non abbassi il computer io non ti vedo, cioè non ci guardiamo neanche negli occhi. Il problema è che qui ogni sera, quando qui c'è qualcuno che fa delle orge, cioè, no! Trovo su questo computer delle robe che, per chi levarle. Domanda agli ascoltatori: secondo voi chi fa le orge? Non so, guardano qua su questo computer, che lasciano aperte. E poi, infatti, per sbloccarlo, quanto ce ne vuole? Vabbè, un po' di pizzicore ai nostri ascoltatori per fargli credere che qui ferve un'opera anche un pochino maliziosa. Esatto. Invece no. Dai, invece sto scherzando. No. Allora, che oggi è una festa di quelle così che mi lascia un po' freddine. Io sono come si è capito in questi anni, per i santi operosi, e c'è oggi il Sacro Cuore di Gesù, che è una cosa che nasce nel 600 perché una suora visitandina francese, che poi diventa Santa Margherita, pure lei, Santa Margherita Maria di Cocchi, inizia ad avere le visioni del cuore di Gesù, fiammeggiante, trafitto dalle spade, dalle spine, cioè tutta questa cosa seicentesca che mi convince un po' poco, per così dire. Però a quel punto poi Pio IX nell'Ottocento universalizzerà questa grande festa del cuore di Gesù, che bisogna adorare in silenzio perché è trafitto dai peccati del mondo. Benissimo, io mi limito a dire che anche oggi preferisco un altro santo, San Giuseppe Cafasso, che è una della triade dei santi operosi sociali torinesi, insieme a San Giovanni Bosco e a Don Guala, cioè quelli che danno l'idea a questa città che insomma era piegata da molti mali sociali a metà Ottocento. Sì, c'era il fremito patriottico, quanto volete, però insomma era una città di poveri e con i primi opifici di giovani senza scuola e così via, e si danno molto molto da fare invece per questo, ed è appunto la triade di Don Bosco, per così dire, come siamo stati cresciuti a conoscerla. Ecco, io preferisco un po' di santi così, sì, per capirci come siamo messi in questo paese che decide di dare un punto di PIL per non toccare gli obbligazionisti senior di Banca Intesa. Cari ascoltatori, un punto di PIL di denaro pubblico, di cui 4 miliardi a Banca Intesa, che è la miglior banca italiana. Ma voi siete davvero convinti? I giornali si stanno bevendo questa cosa dicendovi che è la cosa migliore da fare. Non credeteci, ma migliore rispetto a che? Un punto di PIL di denaro pubblico dalle nostre tasche, di cui quasi un terzo a Banca Intesa, la miglior banca italiana. Scusate. Ecco, però, per ricordarci come siamo messi in questo paese, nel 1946, pensa che oggi, quindi per uscire dalla guerra l'Italia aveva bisogno di carbone. Allora De Gasperi, il carbone non ce l'avevamo, fa una specie di trattato con il Belgio, in cambio di un grandissimo quantitativo di carbone a basso prezzo l'Italia accetta questa condizione di dare 50.000 italiani come minatori, pagati meno e con più ore di lavoro dei minatori belgi. Ecco, questa roba che oggi sembrerebbe, no, se praticata da un paese meno avanzato, una specie di cosa che farebbe insorgere tutti quanti, ecco, è stato il modo in cui l'Italia si offriva all'Europa nel 1946. E posso dire una cosa, non mi scandalizzo particolarmente, perché avevamo fame, avevamo bisogno. L'Italia è stata anche questa roba qui, c'è poco da fare. Dopodiché auguri a Gerardo Colombo, che oggi compie gli anni, auguri a Mattia Feltri, che oggi ho detto il buongiorno a saperlo, il suo compleanno, a Tiziana Maiolo, lo a Tiziana Maiolo, anche bravissimo, anche. È passato un anno esatto oggi del referendum su Brexit, un anno buttato in accesso, questo è il mio commento, perché hanno le idee meno chiare di prima. Hard Brexit, hard soft Brexit, cool, quello che vuoi tu, in realtà non lo sanno neanche loro, cioè un disastro assoluto. Comunque interessante che ieri è passato un anno preciso, pensa un po', un anno buttato, un anno intero. Ma dai. E pensa che ieri comunque hanno iniziato a issare la bandiera bianca Miss Mayhem May, cioè Miss May Chaos, ha dovuto iniziare a dire: beh, no, ma noi gli immigrati europei, cioè gli europei che stanno lì, non si toccano. Adesso inizia a dire: no, ma i loro diritti però devono essere confermati dalle corti britanniche. Ma ti ricordi, Oscar, che avevano detto quando c'erano persone che raccontavano l'indomani: oddio, verrà l'apocalisse, e si dice: ah, tranquilli, verrà tutto, non dico annacquato, ma forse è anche giusto così. Si sono resi conto, ma inizieranno che... a rendersi conto, no, di cosa significherebbe, cioè... e quindi inizieranno a fare trattative con i vari paesi. Oh. E adesso iniziano appunto a dire: ma ed è un bene, gli stranieri che... non devono andare via, gli europei è la scoperta non dolorosa per i britannici, che i britannici con la loro politica hanno commesso due grandi errori, sembrano degli italiani, cioè dei pulcini bagnati che non sanno dove andare. Guarda, che per i britannici è dura, dover ammettere di essere in queste condizioni. Anche perché tu hai sempre detto: ah, viva la democrazia britannica che prende queste decisioni. Sono d'accordo con te, infatti è un motivo di riflessione profonda. È equilibrato solo dal fatto che i francesi invece ci hanno stupiti in maniera così positiva, e quindi abbiamo Macron e la Merkel che oramai sono la vera Europa, e l'Italia con le mani, una mano davanti, una mano di dietro, che da un punto di PIL di cui un terzo a banca intesa. Cioè, siete matti, cari direttori dei grandi giornali, mettetevi una mano sulla coscienza invece di sostenere questo orrendo accordo per dare ragione ai regolatori italiani, perché questa è la, per dire che noi non vogliamo applicare le regole europee, per non ammettere che i regolatori italiani erano conniventi con chi piazzava le obbligazioni delle banche, punto. Però io sono un minoritario, lo sai Alessandro, quindi non ti voglio coinvolgere, sto parlando a titolo personale. No. Intanto diamo il numero di telefono 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Tra l'altro, Oscar, come sai, sono i giorni della maturità. Sì. I giorni della maturità, anche ieri dicevamo: ma come? Ma perché tutta questa attenzione? Adesso c'era tutta l'attenzione alla bicicletta con le ruote quadrate. Che io, tra l'altro, essendo stato a Singapore lo scorso anno, tra Malesia e Singapore, se andate, c'è uno straordinario museo della scienza a Singapore. E i miei bambini hanno già provato lì, quindi quando l'ho visto ho detto: vabbè, la bici con le ruote quadrate. Però per la maggior parte di coloro che non sono andati lì invece... No, infatti ti rendi conto della percezione di una cosa che mi sembrava di aver già visto, e quindi data per assodata al mio cervello, già provata anche dai miei bambini, e invece è una cosa effettivamente incredibile. Ma io quando l'ho vista, però, rimani stupito effettivamente. La bici dalle ruote quadrate è possibile? Se tu pedali su una pedana particolare, ci sono quadrati con due quadrati diversi delle ruote, pedali come se fosse se fossero ruote tonde proprio, no? E va bene, però pare che sia molto propedeutica ad accettare l'idea che ci siano teste quadre in politica, quindi cioè, esatto. Come training del palestra lo fanno per quello. Poi dovete metterla su una pedana particolare con i quadrati particolari di diverse dimensioni. Non pensate di andare in bicicletta su una ciclabile nelle vostre città con le ruote quadrate, perché non farete molta strada. Allora, però, a proposito di maturità, ma sai che c'è anche il diplomificio, oggi racconta Repubblica questo caso, a Secondigliano, quartiere di Napoli, dove misteriosamente si materializzano centinaia e centinaia di persone ogni anno, si vanno a diplomare lì da tutta Italia. È un mistero quasi della fede, giusto per... Noi vogliamo salutare Francesco Emilio Borrelli, che è un consigliere regionale dei Verdi in Campania. Buongiorno Borrelli. Buongiorno a tutti. Allora Borrelli ci deve aiutare a capire, perché lei dopo alcune segnalazioni ha denunciato tutto, è andato in procura, ha fornito foto, informazioni in merito a questa vicenda del diplomificio. Si offendono se lo chiamiamo diplomificio? Però il nome sembra abbastanza azzeccato. La scuola paritaria Voltaire. Sì. Un nome altisonante, anche questo è importante. Esatto, poverino, si sarà rivolto stando nella tomba. No, vabbè. Che succede a questo Voltaire? Lei deve sapere che il motivo per cui si è creata questa attenzione, io sono venuto a conoscenza di questa vicenda, è che in un comune del napoletano, che non è proprio un luogo turistico, la Campania è tutta bella, la provincia di Napoli è spettacolare, però diciamo che Melito, un comune all'interno dell'entroterra, non è proprio da sempre un luogo turistico, eppure all'improvviso uno di questi alberghi, mi sembra che è l'unico albergo di Melito, perché non ce ne sono altri, viene invaso da persone giovani di altre regioni, in particolare del nord Italia. e praticamente mi danno questa notizia che era arrivata, sa, non passa inosservato trovarsi all'improvviso in un comune che non è abituato a ospitare turisti, un centinaio di ragazzi che vengono dalla Lombardia, dal Veneto, da Roma e così via. Che venivano a fare? La maturità venivano a fare tutti la maturità. Da privatisti, con un ulteriore elemento, che per fare la maturità diciamo all'istituto Voltaire devi avere la residenza in un comune o comunque a Napoli o in un territorio lì vicino, non è che puoi venire. Come fanno allora? Questo è un elemento che ho segnalato alla procura, cioè la possibilità che ci sia un mercato per cui all'improvviso delle persone chiedono la residenza e la ottengono in, a Napoli o diciamo in quelle zone, perché Secondigliano è attaccata praticamente a Melito, a Giuliano e altri comuni di quella zona. Praticamente risulterebbe che molti giovani tra Milano, il Veneto e Roma hanno avuto e ottenuto la residenza in questi comuni, stanno svolgendo in questi giorni la prova di maturità e ovviamente stanno venendo e poi torneranno nelle loro regioni d'origine e ritireranno probabilmente, scomparirà anche la loro residenza. Il meccanismo purtroppo sembrerebbe questo, nel senso che il costo di questo diploma è 5.000 euro a quanto ci risulta, è una bella cifra. Praticamente questi giovani, ci sta tutto un meccanismo per cui questi giovani chiedono e ottengono la residenza con famiglie compiacenti dell'Interland napoletano, cioè che praticamente dichiarano prendono la residenza nel loro nucleo familiare all'improvviso, e ovviamente prendono qualcosa. Certo. Compiacenti anche funzionari comunali che all'improvviso, se uno si trova 100 milanesi che diventano residenti a Melito, insomma, probabilmente sorgergli un piccolo dubbio. Esatto. Ma questo mi dicono che non è il primo anno, perché l'ho segnalato io che è esploso tutto questo caso. Poi dopodiché arrivano, fanno questi esami che segnalano siano non particolarmente problematici, diciamo che li passano, ecco, perché arrivare fino a lì a essere bocciato mi sembrerebbe un po'. Quando io ho segnalato la cosa, perché questo è avvenuto un paio di giorni fa, alcuni giornalisti, ci sta uno che del Mattino, sa Giuseppe Grimaldi, uno di un giornale locale che si chiama Il Roma del Sabatino, vanno là e vengono non solo accerchiati, vengono minacciati, gli vengono sequestrati i telefonini perché avevano fatto delle foto e praticamente vengono mandati via. Diciamo che oggi racconta Repubblica che sono arrivati, c'era un manager, perché poi appunto Oscar, anche andando in onda prima dicevamo, e adesso gli ascoltatori diranno ecco la classica truffa a Napoli, ma vengono da tutta Italia, cioè per fare la truffa. Il tesoriere della Lega si è diplomato così. Lo so, ma la truffa è, in questo caso l'Unità d'Italia funziona che a Napoli organizzano, ad approfittare della truffa sono quelli dell'ordine, quindi diciamo che ci sta una complicità italiana. Infatti ha ragione lei, cioè non è una complicità, è vero. Come sempre capita nell'illecito, il mercato è fatto dalla domanda e dell'offerta, quindi qui c'è un'offerta locale, ma la domanda, come si vede, è nazionale. No, ma infatti Repubblica racconta ieri di un manager arrivato dal lago Iseo, uno da Pistoia, appunto, uno da Cagliari, uno da Roma, dalla Lombardia, insomma vanno lì. Ma che cosa si prospetta come ipotesi? Allora, l'ipotesi innanzitutto è truffa. La seconda cosa è che, e questo mi dispiace molto dirlo, la seconda cosa è che io ho scoperto per caso che il provveditorato agli studi sapeva da tempo, perché non è il primo anno che succede questo. E com'è che non interveniva? Ma loro dicono: noi abbiamo mandato una nota, poi il consiglio di istituto ha deciso comunque di andare avanti perché loro dicono che invece è tutto a posto. Non mi sembra una risposta ragionevole, perché adesso invece sta intervenendo il ministero. Ho visto ieri la nota del ministro, del sottosegretario del ministero dell'istruzione, che è intervenuto pesantemente. diciamo che fino ad oggi ci andava bene a tutti. Perché? Perché chiaramente ci mangiavano le persone che ospitano, ci mangiavano, anche se poi fa un bel business, gli alberghi, le strutture è chiaro. Locali, no, ma ci mangiavano i docenti che stanno diplomando queste persone, ci mangiavano queste persone perché casomai senza studiare si ottengono un pezzo di carta e poi capiamo perché in alcuni casi nel nostro paese c'è una classe dirigente che fa un po' pena. Per me uno che fa il manager e si compra il diploma dovrebbe essere cacciato a pedate da qualsiasi azienda in cui lavora, perché è già distorto il metodo con cui lui pensa di fare l'interesse della sua azienda e del paese. Lei è andato in procura, ha consegnato tutto, però è chiaro che Borrelli, la questione è che se loro dicono ma ha dato la residenza, c'è un funzionario comunale che ha dato la residenza e quindi la residenza c'è e sono venuti qua, è il loro diritto, hanno fatto l'esame, è sostenuto, ci sarà una commissione che dirà che è tutto a regola, era preparato il candidato, cioè non è facile da dimostrare, voglio dire che... lo so, però certo, potrebbe essere pure che alla fine questa diventa una storia per cui burocraticamente potrebbero aver fatto tutto perfettamente, però io sono convinto che almeno dalla sensazione che ho dalla procura ci sono degli elementi, perché poi si è scoperto che prima che io sollevassi la questione, stia facendo l'esposto in procura, sia rendendo note, cioè un passo tra virgolette alla stampa questa storia, quasi capisce perché è importante la stampa, perché in alcuni casi certe vicende, se diventano esplosive, costringono diciamo le istituzioni a muoversi anche con maggiore velocità e determinazione. Ebbene, ci sono altri esposti di altre persone che però non sembra che avessero avuto un grande seguito, che sia quest'anno sia l'anno scorso avevano segnalato anche alcune cose riguardanti la commissione interna e persone che non avrebbero titolo neanche a farne parte. Quindi diciamo che io sono abbastanza fiducioso che la cosa avrà un risvolto, se ci sono tutti gli aspetti penali del caso, per creare veramente giustizia. Anche perché non dimentichiamo che diplomarsi innanzitutto è una cosa seria, e seconda cosa, comunque non è che nel nostro paese vengono bocciati numeri impressionanti di giovani. No, ma è chiaro, uno se vuol fare la maturità allora, è anche un impegno. Dei succi, cioè, quelli proprio che sono scarsissimi e che casomai, tra l'altro, ottenendolo con un sotterfugio. Terza cosa, tu non puoi prendere una residenza fittizia, perché anche quello, perché sia un reato assolutamente minore. Quello soprattutto, magari quello bisogna agire forse su quello. Intanto noi la ringraziamo, Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi in Campania, per questa denuncia che anche noi facciamo nostra. Come i vecchi concorsi per diventare avvocato in Calabria, che tutti andavano in Calabria, no? Ma sì, poi c'è qualcuno che ci scrive, c'è un comune simile anche in provincia di Reggio Calabria, però ascoltatore, non è che si può dire così e poi non lanciare questo sasso così, non lo sappiamo. Certo, il caso di Secondigliano c'è, perché appunto un nuovo pubblico ha ritenuto doveroso sollevare il caso, secondo me sì, ha reso grazie, infatti, perché questa è una milizia civile fatta così e non è una questione di politica di parte. No, infatti su questo non c'è dubbio. E c'è Fabio da Roma che ci chiama, che mi dicono buongiorno, avere una testimonianza diretta del cioè, caso. Testimonianza diretta? Sì. No, non voglio accusare nessuno, perché poi non è che sono stato lì vicino alla persona, però devo dire che buongiorno a tutte e due, innanzitutto per l'ultima trasmissione. Allora, logicamente ho avuto una testimonianza che due persone, due individui si sono recati in quelle zone lì, non so se poi realmente in quel tipo di posto dove ha citato poco fa l'altro utente e l'altro ascoltatore, che praticamente andavano lì e prendevano queste, andavano lì, non so se hanno preso la residenza, questo non lo so. Devono prendere la residenza, perché sennò non si possono iscrivere. Ok, e si recavano un paio di volte, si sono recati lì due tre volte, una volta a settimana, una volta al mese, forse una volta al mese si recavano lì presso questi istituti, e poi alla fine hanno fatto l'esame e si sono accaparrati questo diploma. Ma proprio questa scuola di cui si sta parlando? Guarda, io non so esattamente della scuola, però è con certezza è così l'iter, è stato come è stato ben descritto. Io la cosa che mi fa è che io mi sono dovuto diplomare, laureare, e poi non è soltanto il diploma ma anche le lauree. Io volevo ecco, ho chiamato anche per questo, perché esiste proprio una sorta di mercato delle lauree in queste scuole cosiddette che si dicono che sono l'eccellenza del privato e quant'altro, che con le tesine di 10 pagine si prendono la laurea in scienze politiche, la laurea in economia, cioè io mi sono laureato alla Sapienza, ho fatto un mazzo tanto, ho lavorato durante, e poi me li trovo anche in azienda questa gente, cioè nel senso aziende pubbliche, che ti trovi gente che praticamente ti prende questa laurea per fare gli scatti di No, ma è chiaro che la rabbia c'è, però insomma ci conferma che anche come diploma ufficio esiste anche questo. Fabio, noi la ringraziamo. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, Oscar, poi dopo riprendiamo, ci sono tanti ascoltatori, temi anche sulle banche, vedi che vogliono intervenire, e allora state con noi. State ascoltando un programma offerto da... Per gestire le risorse umane ci vuole experience, scoprila su inaz.it. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, 8:44 minuti. Tutti che vogliono parlare o di diplomificio o banche. Questi sono i due temi. I due temi. C'è Carmine dalla provincia di Salerno. Buongiorno Carmine. Salve, buongiorno. Dica. Niente, io volevo testimoniare in merito ai diplomifici. Io abito in un paese in provincia di Salerno dove su una strada ci sono una strada di 6-7 km, ci sono tre scuole private, diciamo. E quando arriva il periodo della maturità, siamo costretti a cambiare strade, fare strade periferiche perché c'è un caos. Cioè diventa c'è strada... il traffico, centro di il traffico. Il problema di Salerno è il traffico. Sì, sì, ma 300-400 auto parcheggiate. C'è un bar vicino a queste scuole che fa affari in questo periodo pieno di gente. Ma come mai? Perché da dove viene questa gente? Ma esatto. Allora, sono tutta gente che viene da fuori, perché a volte sono in bar a fare colazione, chi parla romano, chi parla fiorentino, non è nessuno del posto, tutta gente, tutte targhe... macchine comunque che si vede che vengono dal nord, ragazzi, capisci, o dal centro. Capisci Oscar che il racconto poi delle persone del paese, cioè raccontano spaccati che poi dopo finiscono sui giornali, no? Dovrebbero le procure ascoltare più, avere più, fare un giro nella via dove però abita, diciamo Carmine, le cose come stanno, e ecco, vedere perché se... adesso viva il consigliere dei Verdi che ha fatto il suo mestiere e viva chi ci testimonia con le telefonate, ma che nell'ambito dell'offerta privata dell'istruzione secondaria i diplomifici, cioè quelli che pur di incassare insomma chiudono uno, due, tre occhi, ecco, questo è noto da quel dì, tant'è che è una delle ragioni storiche anche perché la sinistra e il sindacato hanno sempre detto, hanno resistito alle paritarie, alla vera parificazione dell'offerta, sbagliando, perché non è che tutti i privati sono così per definizione, ci sono anche fior di scuole private di grande qualità. Però questo fenomeno esiste, il problema è perché le autorità scolastiche per prime ordinariamente sul territorio non vanno a fare l'ispezione e controllare? Ecco, questa sarebbe la mia domanda. Esatto, c'è Giorgio da Carpi, buongiorno Giorgio. Saluto il cardinal Granata Giannino, buongiorno. Sì, vabbè. E saluto anche Lino Milan. Eccoci. Io ho fatto 25 anni in banca, 5 da dirigente in zone fiscali, con territorio e quant'altro. Io dico questo, così una considerazione che vorrei che faceste anche voi. Ma scusate un attimo, cioè se a Vicenza e a Montebelluna il vulnus e il buco è questo, ma che buco c'è a Bari? Ma che buco c'è a Napoli? Allora, lei cita... Ma che buco c'è a Palermo? Se si occupa... Beh, Napoli e Palermo, diciamo, le abbiamo già dovute pulire ben prima delle regole europee, come sa, perché abbiamo dovuto intervenire con salvataggi pubblici. Io ho citato così in maniera del tutto esemplificativa. No, lei ha citato, secondo me, con una certa scienza e coscienza, perché appunto il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono scomparsi ben prima e grandi banche poi ne hanno preso il meglio che restava, e ci sarebbe molto da dire su come hanno liquidato nei decenni le passività. Esatto. Quanto invece a Bari, lei l'ha citata secondo me con un po' di malizia, perché complimenti, segue bene le vicende bancarie e sa che la Popolare di Bari c'ha un occhio attento di Banca Italia che la sta sollevando da provvedimenti perché ha comprato Tercas e questo alla Banca Italia faceva piacere. E doveva essere SPA già da mo'. Quindi doveva essere SPA, ma lei vede che lei sa molto davvero come vede. È un finto disinformato il nostro ascoltatore, mi fa piacere. 25 anni in banca. Però poi... Cardinal Giannino, lei oggi ha detto delle cose assolutamente condivisibili e complimenti. Grazie, sono un suicida, lei lo sa. Giorgio, la ringraziamo. No, lo preserviamo qui il cardinale. Maurizio da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Pensavo al collega Maurizio da Milano. Maurizio da Napoli, buongiorno. Alcune considerazioni. Uno, per poter avere anche la residenza sul luogo dove si fanno questi, si sostengono questi sì. esami, significa che ci deve essere anche una collusione. Già. Beh, ce l'ha detto, ce l'ha detto anche famiglie che li ospitano fittiziamente, non si sa, cioè proprio un sistema, è chiaro che un sistema va fatto per bene. La considerazione è un po' diversa, nel senso che alla fin fine in Italia possiamo dire che siamo tutti un popolo di imbroglioni, inutile che quelli del nord con la puzza sotto il naso dicono. Abbiamo per primi detto che la domanda, come vede, è nazionale. Sì. No, no, tutti, per no, tutti imbroglioni, no, diciamo, però ci sono, non imbroglioni. Abbiamo detto il sud, no, ma non lo dico a voi, non lo dico a voi, assolutamente. Lo dico in genere quando per televisione escono i vari personaggi che criticano il sud, che è il sud che dove ci sono sempre i soliti imbroglioni, i soliti lestofanti e via di seguito. Però di questi imbrogli e di queste nefandezze ne beneficiano, non perché vengono a fare il fatto qui giù. Ma infatti Maurizio fa bene a dirlo, cioè, ed è quasi, guardi, è quasi un bene che ci siano persone del nord che vanno lì, così si evita il classico luogo comune di la truffa alla napoletana. Ho capito, ma la fanno lì se è una truffa, ma la mettono in atto e ne beneficiano gente del nord, eh? Questo l'abbiamo detto, Maurizio. Però andiamo anche a Valentina da Napoli, altrimenti non c'è spazio per tutti. Valentina, buongiorno. Salve, buongiorno, buongiorno. Niente, volevo aggiungere una testimonianza diretta a quella degli altri ascoltatori. Io ho incontrato queste ragazze sul treno da Padova 2 anni fa. Sì. Che andavano a Melito. Proprio lì, a Melito, quindi... Sì, ma mi ha colpito perché guardavano la mappa su Google Maps e io pensavo... Dico, cioè, ma... Dov'è Melito? Dov'è Melito? No, non avevano neanche l'idea di dove stavano andando. Ci stanno andando. Catapultando a Melito, ma dove sta Melito? No, ero preoccupata, nel senso, sai, queste ragazzine anche carine, benestanti, ben vestite, qualche gioiello addosso di troppo. Insomma, mi sono incuriosita, il viaggio è lungo, le ascoltate, tra le altre cose preparavano l'esame pratico di barman, quindi credo fosse un turistico. Certo. Sì. Preparavano l'esame pratico e mi colpì il fatto che avessero una macchina ad aspettarla in stazione a Piazza Garibaldi. Quindi insomma, secondo me il giro è veramente ampio. Ma io sa, perché penso... raccontano ieri di questo imprenditore che arriva su Repubblica e c'è quello che gli prende la macchina e dice: non si preoccupi, pago io il parcheggio, dottor. Cioè pare che ci sia proprio un'organizzazione fatta bene, anche bisogna dire. No, ma sicuramente erano delle ragazze venete, le attendeva una macchina in stazione, le avrebbe portate lì, avevano le cene già organizzate in pizzerie della zona, insomma una gita di quinto liceo. La gita di quinta liceo, la si gita fa con diploma, che vuoi fare? D'altronde si fa la gita in quinta liceo, quindi che problema. Esatto. Va bene, Valentina, le ha aiutate almeno? Cioè a orientarsi? In italiano perché fu drammatico quando iniziarono a parlare del tema d'italiano, cioè sulla parte barman se la cavavano, ma sul tema d'italiano dovessi intervenire un po', insomma. Aia. Però vabbè, secondo me sono state diplomate, così faccio una previsione, si sono diplomate. Però guarda il garbo con cui Valentina, la nostra ascoltatrice, ha fatto notare nell'ultima frase, con una diplomazia costruita sulle labbra, in realtà una rasoiata alla carotide, perché le ragazze venete sull'italiano non se la cavavano. Fantastico, Valentina, bravissima. Va bene, grazie Valentina ovviamente per questa testimonianza. Caro Oscar, noi qua ovviamente andiamo avanti fino alle 9.30, lo sai, parleremo anche della siccità. Ma manca l'acqua, esatto. Manca l'acqua, noi qua ce l'abbiamo. Ma io vi svelerò la vera spiegazione, perché c'è una spiegazione politica. Ci ho pensato stanotte ho pensato con un po' di amici, mi hanno detto non hai ancora capito perché non piove, e me l'hanno spiegato, io sono rimasto senza parole, ma dopo ho capito, ma manca un minuto. Vabbè, allora in questo minuto raccontaci qualcos'altro. Vuoi che lo anticipi? I miei amici sostengono che la questione sia questa. Sì. Dice, ma guarda che la ragione è politica. Dico, no, cioè, l'anticiclone. Dice, ma no, la ragione è politica. E dico, dimmela questa ragione politica. Io non riesco a collegare i fenomeni meteorologici con la politica. Capisco che la politica può tutto. E dice, non hai capito. E l'era Renzi. Non piove perché non c'è il governo ladri con Renzi. Dico, voi siete matti. Fatevi curare. Ma uno buono ci vuole. Capito? Siccome il governo è... Sapevo che andavi a parlare così. Lì. No. Piove, governo ladri. No, non piove. Onestà. Non piove. dove quindi il governo non è ladro, onesta, perché c'è l'era Renzi, l'era dell'acquario si è aperta. Ah, dico, ecco che c'è l'acqua, ma infatti però nell'acquario perché non piove. Dico, vabbè, siete matti, ragazzi. Perché ci sono un po' di amici del PD che con cui io è stata una cena un po' turbolenta. Questiono sempre, no? Ma questiono e ridono perché loro dicono, vabbè, ma tu sei un po' ossessionato, fanno schifo tutti, Renzi è un po' meglio, mi dicono sempre. Dico, così io vorrei un mondo in cui ci fossero tanti buoni e magari uno ottimo. E loro mi dicono, vabbè, allora però cambia paese, allora quante ne vuoi? In Botswana, ti dicono. Allora, dai, c'è anche Giorgio da Milano. Dai, Giorgio, sia breve, sì, no, per cortesia. Ho sentito quel uno che ha telefonato, che ha detto, ah, ma anche quelli del nord sono dei truffatori, così. I truffatori ci sono dappertutto. Sì, ma mi piacerebbe anche sapere, quelli del nord che vanno giù al sud, dove sono nati prima, o comunque i genitori da dove... Lei ha il dubbio che siano del sud, trapiantati, ecco, al nord, ecco, crescendo, ecco, al sud. Effettivamente Giorgio non ci aveva... ci pone questa questione genealogica. Dici che non si vede che l'Italia è un paese unitario da poco e male. Si vede, basta far parlare i cittadini. Vengono dal lago di Iseo, ma che cognome hanno? Il padre e la madre vengono dalla Sila. Dai, andiamo al giornale radio, poi rientriamo qui fino alle 9.30. Non piove. Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. Vi ha presentato 24 mattino. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Ci sono due buone notizie arrivate ieri dal mondo dei trasporti e nello specifico dal mondo ferroviario. La prima... la resa il ministro alle infrastrutture e trasporti Graziano Del Rio nel corso dei lavori del G7 trasporti che si tiene a Cagliari, confermando l'impegno del governo e delle Ferrovie dello Stato per il rafforzamento della linea ferroviaria ionica della Napoli-Bari, dove si attiverà realmente l'alta velocità e comunque quella che si chiama alta capacità, ossia treni che viaggeranno a 200 km all'ora nella parte tirrenica e appunto adriatica e infine ionica. Vedremo poi se i tempi annunciati dal Del Rio saranno confermati, ma intanto prendiamo atto che l'impegno resta nell'agenda del governo. Ma l'altra notizia importante è il fatto che le Ferrovie dello Stato siano riuscite a collocare un'obbligazione dal valore di 1 miliardo con scadenza a 8 anni, avendo un tasso di interesse basso al 105 punti base e con una richiesta molto alta, 1 miliardo e 800 milioni di euro. Se aggiungiamo a questo il fatto che Trenitalia UK sia tra i finalisti in Gran Bretagna nella gara per la rete ferroviaria del sud-est, oggettivamente ieri per le Ferrovie dello Stato e soprattutto per il futuro del trasporto italiano è stata una buona giornata. Adesso non manca che rispettare la tabella di marcia annunciata. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Attenti a noi due. Sono le 9:05, Oscar. Andiamo in onda fino alle 9:30, minuto più, minuto meno. E non piove. E ci fa sapere Oliviero Tacchella via mail in diretta, guarda qua, che è espressione milanese ottocentesca, governo piove, governo lado, perché il governatorato asburgico del Lombardo-Veneto in caso di piogge diffuse durante l'anno usava aumentare la percentuale di prelievi su raccolti ritenuti più abbondanti. Quindi vieni, abbiamo anche la lezione di storia in diretta del nostro ascoltatore. E infatti proprio questa è la lezione storica. Piove, quindi non piove? Cosa dovremmo dire? Non piove? No. Governo onesto? No, io governo onesto non riesco, con tutto il rispetto. Non ce la fai, no, non ce la faccio. Non ce la fai. No, francamente, non se ne voglia Gentiloni, però insomma, non ce la faccio proprio. Ieri abbiamo avuto un ministro, facciamolo anche... una riflessioncina. Avevamo avuto un ministro ieri, ministro Calenda, dell'industria, che è venuto, quindi su, ragazzi, e dopo 850 giorni sta legge sulla concorrenza, ma, cioè, e allora su, chiudiamola, ditelo, cioè, allora ditelo, no? È uscito dalla trasmissione, è andato al Parlamento, e cosa hanno fatto? L'esatto opposto. E certo, no, non ce la fa, perché poi il messaggio politico, i renziani devono dire a Calenda ti facciamo ballare. Che cosa ridicola, guarda, ridicola. Perché quando la politica lancia i messaggi di fumo, ieri Calenda ha smentito che sia stato questo, però... vabbè, ovvio, cosa può voler dire, però lui è stato il primo qui a dire spero che non siano i renziani, ha detto chiaro a questi microfoni, no, quando ha detto spero che non siano, certo, i renziani a voler disconoscere la legge perché l'hanno emanata loro, peraltro, vabbè, ma comunque la politica è fatta di questo. Poi adesso vedremo i ballottaggi in arrivo, se vince di nuovo la destra, Dudu, il finto Dudu, il nuovo Dudu. Sì, questa ragazza è fantastica, comunque, a Porta a Porta, cioè Dudu si dimenava perché non era Dudu, era una copia di Dudu, cioè è andato da Porta a Porta con Dudu, ma non era il vero Dudu, era un fake, era un no, è per quello che si dimenava come un'anguilla, pur essendo un cane, in braccio a Berlusconi, come se non l'avesse mai visto, perché non l'aveva mai visto, era una copia di Dudu. Che questo vuol dire che era tutto organizzato, cioè non era la sorpresa, vi ho portato Dudu, no no, proprio era... Cioè stai dicendo che Vespa si è prestato... Vabbè, insomma, gli autori della trasmissione avranno dovuto recuperare un cane simile, o qualcuno avrà dovuto recuperare un cane simile, uguale a Dudu. Poi dice perché l'informazione in televisione non fa più... vabbè, no, vabbè, dai, comunque. Allora, ci sono ascoltatori, c'è Michele da Vicenza, buongiorno Michele, ancora sul caso, buongiorno, di prima... Sì, buongiorno, niente, volevo parlare sul discorso della scuola, dei diplomi, sì, sì. Ecco, che è un problema, vabbè, Napoli o giù di lì, a sud, può essere, possono esserci dei casi eclatanti, ma ce li abbiamo anche qua al nord, di istituti che, privati, che della serie molto semplicemente basta pagare, che poi alla fine ci pensiamo noi, insomma, a portare avanti. Sì, però diciamo casi così, cioè di organizzazioni che sistematicamente portano persone da tutta Italia, attraendole con addirittura il sistema della pizza pagata, cioè pizza pagata, comunque vi organizziamo, sapete dove dovete andare a mangiare, vi prendiamo con la macchina in stazione, cioè mi sembra una cosa ancora più sistematizzata, ecco, tutto qua. Però certo, Michele, ci sono ovunque i truffatori. Allora, Oscar, al di là delle battute, piove governo ladro, qui la situazione è seria per quel che riguarda la siccità. Tanto che il governo, proprio il Consiglio dei Ministri, per le province di Piacenza e Parma, ha stanziato 8.650.000 euro e ha proclamato lo stato di emergenza. Con noi, tra l'altro, la salutiamo, c'è Simona Caselli, assessore all'agricoltura, caccia e pesca della regione Emilia-Romagna. Buongiorno. Buongiorno a voi. Oggi credo ci sia una riunione in cui lei deve fare un po' il punto della situazione per l'agricoltura. L'Emilia è una delle, Emilia-Romagna è una delle regioni più colpite da questo punto di vista. Sì, no, ce ne sono state quattro da venerdì di riunioni, ne facciamo continuamente, salvo mercoledì che sono stata al Ministero. Oggi abbiamo quella con il comparto del pomodoro in specifico, che è uno di quelli più minacciati proprio perché insiste sulle aree di Parma e Piacenza in particolare. E quindi oggi ci dedichiamo a questa, che è una filiera per noi importantissima, anche perché oltre a riguardare gli agricoltori riguarda anche poi l'industria di trasformazione a valle e quindi anche tutti quelli che poi ci lavorano d'estate. Sai che una cosa, Oscar, che mi ha colpito oggi, noi riusciamo a litigare su tutto e pare anche su questo, racconta Repubblica, e siccome abbiamo un assessore della regione ci può aiutare, che c'è una diga, la diga del lago Brugneto in Liguria, che potrebbe aiutare, fare al caso, perché parte di siamo già andati, abbiamo già ottenuto 4 milioni e mezzo di metri cubi, no? Quello è già stato fatto. Il problema è che poi, se non ottenevamo lo stato di emergenza, non potevamo fare la deroga del flusso minimo vitale, che è quell'acqua che bisogna lasciare scorrere, non si può tirar via perché altrimenti muore tutto a valle. E quindi sì, senza quella deroga lì, cioè potendo lasciare scorrere un po' meno d'acqua, anche l'acqua del Brugneto finiva per servire a poco, perché il Trebbia è messo veramente male. Ma voglio dire, la Liguria collabora, perché su Repubblica si racconta di una scoppia, una grana tra Genova, tra Liguria e l'Emilia Romagna, per la guerra della diga addirittura. Io lo imparo da voi, nel senso che la Liguria a me risulta che ha collaborato e ci ha dato questi metri cubi. Questo accadeva già quasi 10 giorni fa, in realtà. vita. Beh, questa almeno insomma è una notizia per smentire, insomma, ogni tanto. No, poi se le cose si aggravano, io non escludo che non tanto rispetto alla Liguria, ma anche rispetto alla gestione del bacino del Po, possano crearsi delle situazioni in cui ognuno a un certo punto si preserva nell'area limitrofa con la propria acqua. Però è chiaro che il meccanismo non può essere questo. Naturalmente, per esempio, noi in Emilia Romagna abbiamo un altro problema gravissimo, che se non arriva abbastanza acqua al delta del Po, dopo lì c'è il cuneo salino, cioè viene dentro il mare, e rischieremo di trovarci a Rovigo e a Ferrara il sale nell'acqua di Falda, cioè, quindi insomma è cosa grave. Ma per dare un'idea a chi ascolta, ovviamente, e che non ha l'idea delle complessità di un sistema idrico, idrografico, orografico, tutto collegato come quello che insiste e con cui lei poi si trova a fare i conti quando viene l'emergenza nella sua regione. Quindi, dando per scontato che è un po' complicato, in poche parole, rendere la complessità di tutto questo, per quanti giorni barra settimane prima che i danni diventano da seri, come sono già adesso, non veramente drammatici? Cioè, il sistema degli invasi a cui fa riferimento a valle dei sistemi, quanto ancora consente di andare avanti attivandoli uno per uno con attenzione prima che poi succeda un disastro davvero? Poi guardi, con questi dati, con il fatto che la dichiarazione dello stato d'emergenza ci consentirà di cercare posti d'emergenza, di utilizzare fonti alternative che adesso non sono usate, possiamo andare avanti qualche settimana. Il problema vero però è che intanto l'agricoltura viene in priorità 2 dopo l'idropotabile, certo, per cui prima si dà l'acqua, certo, alla gente, poi dopo. E quindi questo già è un tema, perché in alcuni luoghi già adesso l'agricoltura è in sofferenza, ma non può tirare prima di aver dato l'idropotabile. Ma soprattutto il problema grosso è che qui se non piove non ce la facciamo per tutta l'estate, dopo si dovrà arrivare addirittura ai razionamenti. Cioè, il problema è che qui siamo in una situazione, almeno in Emilia Romagna, che è la peggiore degli ultimi 50 anni, cioè ARPA, e la nostra agenzia per l'ambiente, ci dice che dati del genere non c'erano da 50 anni. E quindi c'è un eccessivo calo della piovosità media, praticamente da novembre non piove, insomma, cioè piove un giorno o due, ma è roba inutile. Sì. E quindi questo è il vero il punto vero problema che poi è questo, ci porta, chiaro, al cambiamento climatico, perché poi qua noi, siccome siamo in una situazione diversa, per esempio, da Lombardia, Piemonte e Veneto, perché loro hanno acque di scorrimento tutto l'anno, anche il tipo di fiumi, sì, no? L'Emilia, certo, Romagna, certo, no. Cioè, noi abbiamo dei fiumi che si asciugano d'estate, da sempre questo. Quindi abbiamo sviluppato dei metodi anche in agricoltura molto risparmiosi d'acqua, sì, di irrigazione a goccia in tutto il pomodoro, per dire, cioè non la buttiamo via l'acqua. No, è chiaro che il problema è molto serio. Però, assessore, insieme a lei, assessore Simona Caselli, regionale, siccome ha parlato di agricoltura, vogliamo salutare Lorenzo Bazzana, che è responsabile economico della Coldiretti, ci ascolta. Buongiorno Bazzana. Buongiorno. Perché voi stime ne avete già fatte di quelle che sono le possibili perdite, i possibili danni all'agricoltura? Sì, anche perché in ogni caso sono stime aggiornate ad oggi. Qui ogni giorno che passa evidentemente l'emergenza si allarga, e poi dobbiamo considerare che l'agricoltura è soltanto il primo tassello, perché come giustamente diceva l'assessore, c'è dietro poi tutta una filiera che trasforma i prodotti che appunto derivano dall'agricoltura e che fa e dà quel Made in Italy agroalimentare, che non solo è rinomato e riconosciuto in tutto il mondo, ma che addirittura rappresenta circa 38 miliardi di euro di esportazioni all'anno. Quindi non stiamo parlando semplicemente di un problema di una categoria che qualcuno potrebbe immaginare residuale. Qui stiamo parlando dell'ossatura socio-economica del nostro paese, che evidentemente dà un sacco di lavoro, dà un sacco di import, e quindi favorisce la nostra bilancia dei pagamenti di quello che è import-export, e quindi da questo punto di vista va considerata per l'importanza che ha, non semplicemente come un settore produttivo che qualcuno potrebbe pensare di seconda fila. Si è vista questa cifra, 1 miliardo di euro, e questa è la stima potenziale di danno. E questa è la stima potenziale. Dobbiamo considerare che negli ultimi 10 anni noi, con queste alterazioni climatiche, per carità non solo la siccità ma anche gelate, grandinate, abbiamo calcolato oltre 14 miliardi di euro di danni. Crediamo che a questo punto veramente ci si debba mettere ad un tavolo e fare una programmazione evidentemente diversa. In alcuni casi le aziende agricole si sono già attrezzate, come si diceva prima, con l'irrigazione a goccia, cambiando quelle che possono essere le culture, cambiando quelle che sono le rotazioni, ma noi crediamo che in questo paese che è così fragile dal punto di vista idrogeologico, molto spesso vediamo che ci sono dei periodi in cui l'eccessiva abbondanza di acqua provoca danni, disastri, addirittura tragedie, poi abbiamo periodi come questo in cui di acqua non ne abbiamo abbastanza, dobbiamo riuscire a fare in modo che ci siano quegli invasi, ci siano quelle modalità operative che ci consentono di accumulare acqua nel momento in cui ne viene giù e poi poterla utilizzare quando invece serve. Ah, questo è chiaro. Ma tra l'altro, dal punto di vista del consumatore, Bazzana, c'è questo problema, i prezzi, perché poi aumenteranno i prezzi dei prodotti, no? Paradossalmente, questa ovviamente è una è un qualcosa che potrà accadere, nessuno dice di no, però paradossalmente in questo momento, che è un momento di grossissima difficoltà dal punto di vista della produzione sia vegetale che animale, perché ovviamente sappiamo che ad esempio nella pianura padana il mais è propedeutico a tutta quella filiera nobile del latte, della carne, dei formaggi eccetera eccetera, però paradossalmente in questo momento, in un momento di così grossa difficoltà, i prezzi sono sottoterra. Forse il consumatore non se ne accorge, ma la stessa filiera, per dire ortofrutticola, di cui l'Emilia Romagna è una delle regioni più importanti, è in ginocchio perché in questo momento ci sono dei prezzi che sono assolutamente sotto i costi di produzione, ma nessuno se ne accorge, nel senso che il consumatore poi andando a fare la spesa non vede questo abbassamento dei prezzi che quantomeno potrebbe incentivare i consumi. Invece abbiamo prezzi bassissimi all'origine e prezzi che comunque rimangono di una certa consistenza al dettaglio. Questo evidentemente è un ulteriore tassello che fa male al produttore agricolo, all'imprenditore agricolo, perché da una parte abbiamo questa emergenza dell'acqua e dall'altra parte in questo momento anche quello che riusciamo a raccogliere ha un valore che è veramente residuale di mercato. Assessore Caselli, posso farle una domanda anche qui pensando ai nostri ascoltatori che dicono sì, ma cosa fa l'assessore una volta che ci ha detto qual è il problema specifico della sua regione, c'è chi ha acqua che fluisce tutto l'anno, la mia Romagna no, bla bla, però in una condizione così, più che sperare che piova, voi come regione particolare al governo, alle autorità nazionali, che cos'altro potete attivare in realtà? Questo stato di emergenza noi l'avevamo chiesto per tutta la regione, in realtà ci è stato dato solo per Parma e Piacenza, che sono le punte estreme, però ripeto, qui nel giro di 15 giorni, siccome le previsioni non sono buone, cioè nel senso che non dovrebbe piovere, la situazione rischia di arrivare fino a tutta la Romagna, che adesso sta un pochino meglio, nel senso che là il calo di pioggia è stato minore. Però insomma per ora ci è andato per questo è quello che ci consente appunto di andare a cercare fonti alternative, quindi di approvvigionare acqua. Poi nel medesimo tempo, io l'ho già detto nelle riunioni di questi giorni, bisogna assolutamente ripensare ai piccoli e medi invasi, perché il piano ce l'abbiamo ovviamente come regione, però è un piano che è stato fatto in tempi in cui magari non c'erano ancora questi fenomeni così estremi, marcati. Ma soprattutto in realtà la cosa che sta creando il problema, perché il mondo è tutto concatenato, è che la crisi dell'edilizia ha impedito che si scavassero le cave che dovevano diventare gli invasi. Questo è anche uno dei temi che abbiamo, per cui dobbiamo veramente ripensare alle volte anche la localizzazione di questi invasi che erano stati individuati in ogni territorio, fare il punto, vedere se riusciamo a usare le casse di espansione anche a fini di raccolta dell'acqua nel momento in cui arriva, per tenerla da parte e non lasciarla scorrere via, proprio perché, come si diceva, alcuni fenomeni sono sempre più estremi, no? Per cui capitano appunto delle acque. Sì, per cui tanto vale insomma iniziare a pensarci seriamente ai piani, a realizzarli. Perché tanto poi a pensarci adesso, perché poi con i tempi che ci sono, le autorizzazioni, una cosa, se io l'anno prossimo voglio trovarmi in questa stessa situazione, bisogna che ci pensiamo ora, evidentemente. Dopo c'è tutto un tema di risorse, perché c'è un piano irriguo nazionale che ha 300 milioni di euro, finora ne sono stati dati 107, di cui però in Emilia Romagna non ne sono arrivati, anche se i progetti sono stati presentati ampiamente, quindi è chiaro che adesso mi ha presidiato tutta quella parte. I soldini sono pochi, guardi, oggi sul Sole 24 Ore Jacopo Gilberto racconta di 5 miliardi necessari di investimenti in generale per tutto il piano acqua, quindi lei dice 300 milioni, di cui 107, un certo ordine di grandezza. L'ordine di grandezza sarebbe un po' diverso per risolvere il problema in maniera radicale. Comunque noi vi ringraziamo, ringraziamo Simona Caselli, assessore all'agricoltura, caccia e pesca, Regione Emilia Romagna, e Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti. La situazione ovviamente è tutt'altro che facile, è tutt'altro che risolta, perché continua. È su, e qualcuno al governo rubi un po', così più. No dai, su. Dai, Sandro dalla provincia di Piacenza, buongiorno. Non c'è più. Paolo da Venezia. Paolo, buongiorno. Buongiorno, in realtà da San Bona. Da San Bona. In provincia. Ecco. Volevo soltanto accennare una cosa, tutti parlano della popolare di Vicenza. Se qualcuno si ponesse un problema, che allora come ha fatto il signor Zonin da un'azienda vitivinicola, insomma non fra le più eccelse, all'improvviso diventa presidente della banca e esplode come sia come fatturati che come proprietà. Allora un esempio: compra la Popolare Udinese e magicamente dopo qualche mese si compra un'azienda vitivinicola in Friuli, compra una banca in Sicilia e gli viene fuori un'azienda vitivinicola in Sicilia, compra la Popolare di la Cassa di Prato e gli viene fuori un'azienda vitivinicola molto grande peraltro in Toscana, e così via. Allora, a dubitare, tutti hanno sempre detto che probabilmente è anche un peccato, però molto spesso ci si può indovinare. Parafrasando. Le ragioni sarebbero anche da vedere qual è stato il ruolo in tutte queste cose della sorella che ha fatto. Paolo. Allora, se qualcuno guardasse scoprirebbe che non è tutto orgo che luccica. Vabbè, Paolo, da San Donà. Da San Donà è una telefonata. Però Paolo, se vuole, su questo il campo è arato. Cioè, se vede l'ultimo libro di Andrea Greco, di un altro collega di Repubblica, sul sistema delle banche popolari, capitoli dedicati a Vicenza, insomma, tutto quello che si è potuto raccontare sul come e sul perché, vede, il problema non è tanto solo il collegamento improprio e la crescita del proprio gruppo vitivinicolo. Il problema è che a favore di questo maxi piano di espansione prima, e poi le prassi sempre più in violazione di legge, delle vendite baciate di titoli: se volevi un mutuo dovevi comprarti il titolo, che non aveva un valore di mercato ma era stabilito dalla banca ed era un valore lontano sideralmente in realtà dal valore della banca, e così via fino alle azioni subordinate piazzate senza dire i rischi a cui ci si esponeva. Tutto questo è avvenuto perché i regolatori hanno avuto una collusione incredibile con banchieri come Zonin in Italia. Questo è il punto, ed è per questo che non stiamo adottando le regole europee, perché le regole europee non le vogliamo adottare perché in caso di banche che finiscono la risoluzione prevedono la conversione, cioè l'azzeramento, ma per quota parte fino ai senior, non l'azzeramento delle obbligazioni. Siccome su questo è come se Banca Italia e Consob dovessero rispondere del fatto che hanno tenuto gli occhi chiusi, si sono inventate il fatto che no, bisogna avere un'altra strada, ed è la strada che stanno seguendo su Vicenza. A Vicenza già hanno perso miliardi le banche italiane che hanno dato i soldi a Atlante, che gli è stato presentato come quello che risolveva tutto, non è avvenuto, e adesso ci mettiamo 13-15 miliardi per non toccare i senior, e ne daremo 4 Banca Intesa, la prima banca italiana, ne diamo 4 perché sceglierà lei il meglio delle due venete. Io spero che chi gli ascolta capisca, non è una questione tecnica, che stiamo veramente stupendo come al solito al mondo, e dietro ci sono le classi dirigenti colluse. Mi dispiace dirlo, in Veneto, comprese quelle di Confindustria, basta vedere quanti presidenti e vicepresidenti dei territoriali erano a Popolare di Vicenza e a Veneto Banca. L'ho detto in tante altre trasmissioni, adesso questa storia è finita, indagano le procure, però le classi dirigenti veneti e nazionali erano colluse a quel sistema. C'è Tommaso da Pesaro, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci. Chiamavo in merito alla compravendita, diciamo, del diplome. Ecco. Ho sentito discutere parecchio nord, sud, offerta locale, domanda nazionale, però in realtà volevo porre l'attenzione sul fatto che in Italia esiste una sorta di ambiente che questa tipologia di approccio la incentiva. E cioè il valore legale del titolo di studio. Questo io sono in minoranza, ma lei la pensa come me, sì. Cioè, perché se in assenza, nell'abolizione, ed è una proposta che esiste da tempo, del titolo del valore legale del titolo di studio, io potrei pagare 10.000-15.000 euro il mio diploma comprato, ma se tanto, non so niente, il mercato non me lo valuta. Esatto. Ma cui... questa è una discussione molto, una discussione molto lunga, perché sa che nel nostro paese il valore legale nasceva proprio come, diciamo così, timbro, vidimazione, certificazione del fatto che chi aveva meno dal basso aveva uno strumento di certificato che era di ascensore sociale. Questa è la ragione storica. Sì, però lei dice, come tutte le cose in Italia, possono essere nate con un principio giusto e poi sono degenerate, cioè, o meglio vengono utilizzate. Un po' come il Milan, no? Capisci? Diciamo che tutto ciò che nasce con un principio in fondo un po' socialista, anche se buono nelle intenzioni, poi purtroppo finisce nel riversarsi nell'opposto. Ma posso venire a farla da autista? Perché mi sta dando Giannino la soddisfazione. Autista di Tommaso. Ma sì, Tommaso è sembra un po' esagerato. No, no, guarda, è autista, è un maggiordomo. Mi voglio servire autista. Persone così mi commuovo e penso che il mio scopo sia di dire: vengo a farti autista gratis per un mese. La pensi in modo per cui io sarei onorato. Grazie, Tommaso. Andiamo a Piacenza da Marco. Buongiorno, Marco. Siccità. Buongiorno. Eccoci. Il cuore della siccità. Il cuore della siccità, Piacenza. Ma io mi rifaccio all'assessore regionale che ha detto delle cose giustissime. Io sono nella zona dove c'è stata l'alluvione 2 anni fa con dei morti, bombe d'acqua e poi niente, con questa siccità da 50 anni che non si vedeva. Ecco, semplicemente confermo anche a parola di un cugino che lavora, che insegna alla Cattolica all'Università di Piacenza, che la riserva d'acqua per frenare le bombe d'acqua e per dare acqua all'agricoltura quando non piove È l'unica soluzione. Ma lì gli invasi davvero non ce l'avete, cioè non ce l'avete, sono vuoti o comunque progettati ma non realizzati, come diceva l'assessore, anche da voi? No, c'è un invaso su una vallata parallela ad est della Valle del Nure che è un po' vuota, però sul Trebbia per esempio non c'è, e sul Nure, che sarebbe praticabilissima come naturalmente progetto, non è ancora stato realizzato. Però quella sarebbe una soluzione. Io che abito appena sotto mi sentirei un po' come nel Vajon, ma Adesso Marco, alternative tragiche in ogni caso. Voglio dire, esatto, se uno crea l'invaso si sente Vajon come sotto il Vajon, no, se no nel Sahara, altrimenti, via di mezzo, altrimenti non si fa niente, appunto. Comunque Marco, la ringraziamo per il suo intervento, con cui concludiamo questa trasmissione, questa settimana, ma la prossima siamo qua fino alle 9:30. Io anche oggi pomeriggio, domani col Conti della Belva. Ma questo è venerdì, è da un po' che non te lo dico. È venerdì, esatto. Oscar. Esatto. È venerdì. Va bene, dai, salutiamo tutti, ringraziamo e ci troviamo lunedì. Guardi l'SMS che mi avete mandato. Sì, l'ho citata Santa Margherita di oggi. Anche oggi ho citato mia moglie. Sì, l'ho già citata. Anche citato. Oggi un regalo in vista per Margherita. No, sono contento per Margherita. Sì. Non piove, però i dindini per i regali bisogna che escano sempre. Va bene. Ciao. Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. Vi ha presentato 24 mattino.